Ma intanto Gersocene è il titolo che abbiamo dato agli stati generali del jazz italiano organizzati dalla Federazione appunto Nazionale del Jazz Italiano, di cui mi pregio di esserne il presidente, anche se ormai per poco, ma sono stato il presidente per 4 anni dalla nascita della federazione, che è una realtà che porta in seno alla stessa tutte le associazioni, diciamo, di categoria che si occupano di jazz, quindi festival, i musicisti, le rassegne, le etichette discografiche, i jazz club, il mondo della scuola, il mondo della fotografia, e quindi saranno i primi stati generali della storia del jazz italiano in cui attraverso tutta una serie di incontri con il mondo della politica, il mondo della scuola, il mondo dell'economia, il mondo del lavoro, parleremo proprio di questi temi. Lo faremo in 2 giornate, il 20 e il 21 del mese di maggio, nella Sala Bossi del Conservatorio di Bologna, che ci ospita, e poi avremo altre 2 giornate, il 19, che saranno degli incontri interassociativi, e poi il 22, la mattina del 22, chiuderemo questi lavori con un concerto nella Sala Bossi che coinvolgerà l'orchestra del Conservatorio di Bologna insieme ad alcuni solisti. Quindi saranno delle giornate preziose proprio di riflessione, di approfondimento sui temi appunto dell'istruzione, i temi del lavoro, i temi del green, i temi del territorio, i temi ovviamente dell'archiviazione, della documentazione della nostra musica. Sarà un convegno aperto al pubblico, ovviamente, dove non parleremo solamente di jazz, ma dove tenteremo anche di comprendere quanto questa musica abbia permeato poi il sistema culturale del nostro paese, se non è ormai parte, e quindi sia importante proprio nella relazione anche con gli altri linguaggi. Abbiamo iniziato in realtà già un po' di tempo fa, perché già dai primi di aprile abbiamo iniziato ad organizzare tutta una serie di incontri nelle scuole di Bologna, sia in presenza che poi in differita con altre scuole della regione Emilia-Romagna, che addirittura hanno fatto gli stessi allievi del Consiglio del Conservatorio di Musica del Dipartimento di Jazz che del Liceo Dalla. Quindi per la prima volta gli stessi allievi del Conservatorio e del Liceo sono diventati a loro volta professori. Ci sarà poi un festival nel festival dedicato ai jazz club. Ovviamente i jazz club sono una parte fondamentale del nostro mondo, e quindi durante le giornate appunto del 19, 20 e 21 ci saranno tutta una serie di concerti nei 4 club bolognesi, più una marching band che nelle 2 settimane precedenti invaderà la città. Insomma, vogliamo che questo, che è un convegno ovviamente specifico sui temi del jazz, sia anche un momento collettivo per far sì che noi si possa raccontare ancora meglio che cos'è per noi questa musica e cosa può essere anche per gli altri, soprattutto per i giovani. E noi seguiremo passo in passino questo svolgimento. Adesso ne abbiamo dato un'anticipazione, l'assonanza del nome, l'epoca del jazz, mi permetto di intuire, con antropocene, jazzocene, può essere questa, oppure sto esagerando? Assolutamente questo, la lettura è giusta. Il nostro manifesto ha all'interno dei segni che potrebbero essere quelli di una vecchia caverna di alcuni millenni fa, ma poi ci sono anche i segni della contemporaneità, perché la musica, comunque, credo che l'unica maniera per leggere il presente e soprattutto per leggerlo sotto il profilo musicale sia quello di conoscere bene il passato, ma allo stesso tempo di porci le domande su dove si debba andare, soprattutto oggi dopo il tempo della pandemia. Dico dopo perché speriamo di esserne più o meno usciti. Quindi il nostro compito, anche quello del jazz, che è una musica attuale, che è una musica contemporanea, che comunque appartiene all'attualità odierna, che si è sempre legata alla stessa, visto che è nata nel Novecento, è quello proprio di interrogarsi perennemente su quello che si può fare e soprattutto su quello che si può dare poi in una proiezione futura. Questo è anche un po' il senso, il messaggio che noi si vuole portare all'esterno con gli stati generali del jazz italiano. Grazie Paolo per la tua disponibilità e per questa anticipazione, quindi seguiremo. Grazie. Come ho già detto, la rassegna, ti lascio andare agli impegni lavorativi e ti auguro una buonissima giornata.